vuoto. Adesso devo andare in cucina e chiedo di tornare. Guarda, c'erano non so quante tazze sulla struttura più spazio. Da come caracolla sembra lì. Le cose dove sono state le mie. Thank you. adesso io non voglio le carte di qua. Lui ha tirato su la barca.